sì. Natalie, ma perché? Ui, ciao Vittu. Non ti ascoltavo bene di radio, c'era il volume basso basso. Marco Marine. Sì, ui. Come stai? Sì. Piano piano già ci stiamo riprendendo, Vittu. Vero? Sì, ha preso già 60 kg. È appena arrivato a pesarne 52, gatta, dalla 50 di pantaloni che avevo sono passata alla 44, che. Mamma mia, è grave mi farò così. Come? È grave così. Sì, lo so, purtroppo sono stato male e cosa vuoi fare? Comunque so che ti stai riprendendo, è bella, la grande. Sì, già mi sto riprendendo, non c'è problema. L'importante andare avanti, non è semplice in questo periodo, tra questi problemi di questa pandemia, eccetera, non stiamo bene tutti quanti, ma già sta passando, però dai, pian pianino. E speriamo di sì, speriamo che passi tutto in fretta. A passare già passa, purtroppo bisogna avere pazienza, la situazione è sotto controllo, i vaccini li abbiamo fatti. Adesso vediamo, speriamo che questi vaccini però non siano a lungo andare pericolosi, come io qualcuno mi ha parlato che non è semplice, perché ti hanno iniettato questa roba e non sai che cosa ti hanno messo dentro il braccio, questo è il problema. Ah, non penso che ci siano problemi, ovvia, non sono scemi a mettere roba che non debbono mettere, io penso, poi ognuno ha le sue opinioni, anche a me mi avevano parlato male, gente che diceva che c'era il virus dentro a questo vaccino, boh. Vabbè, io mi sono vaccinato e sono tranquillo, non mi ha fatto nulla. Vediamo un po' come va a finire, speriamo che la gente si vaccinino in massa proprio per, se no non ne usciamo. Sì, c'è una certa cultura di vaccinarsi, il problema è che lo ripeto, io ne ho fatto già due, ne ho fatto uno a maggio e uno ai primi di giugno e poi ne ho fatto già la seconda. Speriamo che c'è una testa, perché il testa non ne vuole fare. Sai perché? Perché loro dicono che è valido, ma non sappiamo. Se tu vai a prendere, ad esempio, un farmaco in farmacia, un Aurin, una cosa di questo, c'è tutto uno scritto dei prodotti ti dicono cosa fai, cosa non fai, eccetera, eccetera. Noi chiamiamo iniettato questo prodotto che però nessuno sa i componenti. Ecco che cos'è, il dubbio è questo. Ma ti pare che non sappiano i componenti che hanno messo? E se l'ha approvato l'EMA, all'EMA gli sono arrivati tutti gli studi, tutte le cose, se no mica l'avrebbero approvato così questo vaccino. Abbi pazienza, abbi tu, mica possono mettere un vaccino così alla Carlona in giro. Ma vabbè, abbiamo fiducia, solo che io sono sempre scettico e sono amato per bambini, boh, non lo so, me la sto ridendo, ma... Visto pure cosa ti dico, eh? La vita noi ce l'abbiamo goduta, se crepiamo fregatene, ci siamo divertiti. Beh, ormai io sono ultra settantenne, figurati, già me la sono caduta la vita di gioventù, non era una vita molto prolifera, comunque già ci siamo divertiti, sì. E il problema di questi giovani ragazzi di oggi, che sa come andranno a finire, Quello è il problema, se moriamo noi la nostra vita ce l'abbiamo fatta, e i giovani sto pensando anch'io, al lavoro che non c'è purtroppo e a tante cose, ma speriamo di passare la vita anche questa volta, dai. Speriamo, ma solo se io ho fatto una specie di accenno di chiamata, ma non c'era nessuno mi sembra, perché stavo ascoltando, l'ho acceso 5 minuti fa ed ero qui facendo delle cose e non ho sentito nessuno, non c'è nessuno comunque. Sì, a momenti non c'è nessuno perché siamo in pochi purtroppo, io mi sono seduto qua perché devo guardare se il medico mi ha mandato le medicine, non ha mandato ancora, chissà, maledetta, ma non ne ha mandato ancora. Vabbè, comunque la situazione è quella che andiamo avanti. Io sto facendo dei lavori in casa, sono 2 mesi con i muratori, non ho tempo di niente, non ho più acceso, così. Non ho tempo proprio, niente, zero. Non è che sto lavorando più io che loro. Oddio, per carità. Purtroppo già lo sai, in campagna c'è sempre da fare, caro Vittorio. E cosa vuoi fare? Sei più tranquillo, perché non c'è oro che lo paghi, però sei sempre impegnato, in campagna che cosa va per sempre. Quindi non hai scampo. Purtroppo così sì. Dove sono io, quasi un paese, per dire, no? Ma qua, a giorni dell'autoclave non so, la pompa non so com'è, e poi è quello che la finestra, le tapparelle, ma fa fare, però su 24 sempre facendo, non lo dice, avere tempo. Cosa vuoi che ti dica, Vito? Purtroppo in campagna è così perché ci sono stato e lo so, sempre impegnato, sì, quando sei in campagna, perché c'hai sempre qualcosa da fare, non finisce mai. E questo è quello, già ne trovo 2 strisce io di quella cosa, sono vaghissimi, me ne sono fuggito. Però io già stavo bene in campagna e lì non mi disturbava nessuno, lì potevo fare quello che volevo. Appunto, anch'io faccio quello che volevo, però è spendioso. Tu quando vivi in un appartamento, che cosa fai? Hai solo quelle cosettine, vivi all'interno di questa casa che la trovo troppo restrittiva. Io invece faccio sempre un sacco di cose da fare, ad esempio a Ferragosto mi si è bruciata la pompa del posto, ho dovuto sostituire, ma lo sai che arriva, e ha già pagato 1.000 euro, poi c'è un balla, non ti dico cosa ha già passato su questo caso della pompa. E anche a mio fratello è successo qualcosa alla pompa, mi ha telefonato e me lo stava accennando, che non armava più l'interruttore della pozza. Io penso che si sia bruciata e non armava per quello. Adesso non lo so come l'abbiamo risolta la situazione, ma se era la pompa da 80 metri non era devi nazzarmi. Anch'io ce l'ho 80 metri, il posto è a 100, il posto è sceso a 100 metri, però l'acqua l'ho trovata a 72 metri e la pompa l'ho messa a 80. Il problema non è quello, che quando si brucia la pompa, il termico, il salvavita, vai a attaccare, fa fare l'acqua, niente, non attacca, quindi l'acqua non sale, è bruciato il motore. Le giranti sono buone per quanto riguarda tutto il motore. Il motore è lungo 40 cm, si brucia quello, si brucia il motore e non fa girare le giranti, perciò se parte il termico non c'è da fare, brucia solo il motore. E allora a mio fratello è successa la stessa cosa, là. Già ce l'avevano tanti anni, ma tanti proprio. Era buona quella pompa che avevo messo, perché una volta un fulmine me l'aveva bruciata. Questa pompa, una Asturia, era grandissima, ogni bomba, e poi erano indotti i dubbi che erano divisi in ferro. Allora, quando ho messo questa pompa di adesso, che ci sarà chissà quanti anni, i tubi in ferro non li ho messi più, quindi adesso è uno scherzo a salirmela. Prima era un macello, adesso è uno scherzo a salire sulla pompa, capito? Anche se si trova poi leggera questa, lì era 3,5 cavalli, era una bomba, una Asturia era, me lo ricordo ancora la prima pompa, invece questa mi sembra che sia della Lovara, ma sino per 30 anni. Se si è bruciata ne avevo anche ben donne, dico. Ah, ma gli ha rubato i miei, fatti. Adesso io non ci sono più in campagna e non ci salgo, anche se mi chiamano, perché mi chiamano solo quando hanno bisogno quei disgraziati. Non ci vado, manco se si ammazzano. Adesso mi hai fatto ridere, scusa, già lo so, insomma, la situazione, perché anch'io non è che sia, sono nella stessa barca anch'io. Se brucia purtroppo devi sostituirla, devi chiamare il ferro, l'avevo messa in PVC. Prima ancora le facevano quindi l'ho portata su in un attimo, però se sostituirla è un casino, perché uno deve tirare il tubo, uno deve tirare la fune e uno il... è tutto qua. A momenti 10, a momenti no, non ho capito un tubo, Vittù. C'è qualcosa al microfono che mette la portante, però la radio non esce. Boh, eppure adesso sta uscendo. Ma un poco magari, ma sta uscendo adesso. Eh sì, adesso sì che ti ho sentito. E anche io avevo messo il tubo in PVC. Ui, che prima erano in ferro, gatta. Questa pompa Asturia che mi era la prima, quella lì era 3 cavalli al mese, poi era potente, manna come te pompa, Bisanti. Avevamo preso uno di quegli affari di Fabbro per poterne la salire, se no col cavolo ne la salivi. Sì, ci vuole la carrucola, con la carrucola devi stare tu, se no non ci vuole, come fa? Il tubo prenderlo anche se sei in 4 persone, viene male, voi in 4 persone dove li metti? Devi essere vicino all'imbocatura per portarla su, è pesante. Tu vici, poi quando hai bagnato, quando tu vici a salirla, a una cinquantina di metri, era immersa nell'acqua, il tubo è bagnato e scivola. E qui è un casino. Ma io già ce l'ho fatta, insomma, piano piano, con questa sostituzione. Lei che mi ha costato 1000 euro, maledetta. E Caprare, io l'avevo messo a Caprare. L'Asturia era la prima che avevo messo, si era bruciata appunto come da te a un fulmine. E l'avevo sostituita, ma roba di 25 anni fa, no, vanno. Questa si è bruciata così, purtroppo vecchia, tirando, dopo 20 anni si brucia. E purtroppo quando sono messa in acqua, anche i cavi tengono a, come dire, ad assumere, come dire, umidità, e quindi vanno in corto alcuni cavi e si brucia. Sì, infatti. Questa qui già è leggera, è questa che ho messo ultima, che ci sarà un 30 anni. Già è facile a toglierla. Invece chi dopo che era Bisanti l'Asturia, mamma mia! Se ci avevamo il cavalletto e l'affare del Fabbro, il paranco, tanto per intenderci, per salirnela. Ui ui! Quello che abbiamo passato a salirnela, già te lo puoi immaginare cosa abbiamo passato. Invece qui c'è uno scherzo, a Tannira è uno scherzo. E tu mi hai detto delle 3 cavalletti, 3 cavalli. L'ho messo da un cavallo e mezzo. La tecnologia. Ci sta facendo difetto quel microfono, ma cos'è, microfono normale? È un microfono normale, ma è amplificato, c'è una batteria piccolina, ma a momenti forse è il cursore che non riesce a... ma adesso come adesso sta andando bene, perché sto vedendo qui i LED che si muovono, ma invece si bloccano, adesso sta andando sempre bene. Sì, ma è rimbombante, non si capisce bene quello che dici, Vittù. Non è che lo puoi cambiare e metti un altro microfono normale, no? Oppure apparato del tutto cambi. Guarda adesso, forse va meglio. prova a vedere, però è stato più lungo perché è rimbombante come radio. Guarda, sono 1:03, 1:03 e passo. Ok, dai, già è più comprensibile. Oh, ma è strano, eh. No, è il tipo che rimbomba, l'eco, l'eco c'è per caso. È rimbombante, tipo un eco che ti sovramodula le parole, Gemmi. Capito? Non è chiara, una voce chiara, normale, capito? Perché? Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, vai, andare, aspetta un attimo che c'era stato un break, avanti. Sì, ciao vicino, ciao Natalino. Posso fare una chiamata? Prego, si accomodi, buonasera Gianfra. Sì, buonasera Natalino, buonasera Vittorio. Attenzione Claudio, ci sei? No, negativo, evidentemente non è un ascolto. Va bene, vi sto ascoltando, comunque ci va male Vittorio, qualche problema al microfono, all'inizio andavano bene ma erano sempre interrotti da qualcosa, da qualche contatto, poi ha toccato qualcosa ed ha peggiorato anche di radio. E infatti... Infatti, c'è qualche cosa al microfono, deve essere. Adesso guardo a vedere l'email, un attimo, vedi se mi ha mandato i rizzetti, chissà. Da, adesso, fra un po' gliele mando, un cavolo mi ha mandato. Uff. Riprendo io. Ciao Gianfranco. Stai facendo a tratti, Vito? Boh, non riesco a capire però, eh. Molto strano. C'è qualche cosa in questi cursori che non mi stanno convincendo molto. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Boh, adesso c'è bene, perché vedo i LED quando si muovono, e quando i LED non si muovono vuol dire che non sto facendo bene. Adesso sto facendo bene. Esatto, sì. In quel caso lì c'è solo una cura. Metterlo vicino alla ruota, fare un paio di volte avanti e indietro, vedrai che poi funziona subito. Sì, è una questione di cursore, probabilmente, cioè, vedete, a parte che tu prendi, adesso dovrebbe andare bene, è quasi al massimo. Ah, io ho visto, lo fai uno scambio, ti do un MB più 4 nuovo in tonso e tu mi dai quella 357. Monello. Sì, adesso sono Monello. È un monellaccio parlando così. Adesso sono Monello. Tanto tu cosa te ne fai? Qua serve sempre. Non sai cosa succede qua ogni tanto. Passano dei personaggi un po' strani, macchina senza targa. E allora ti presto il fucile a pompa, con quello lì fai più paura. Vabbè, ma se lo colpisce con quello lì, vai tranquillo e poi va anche più lontano. Già lo so, ma se lo spari con quello lo alzi 2 metri a terra. No, così dice a Medeggia. Gli è poco potente intanto. A 50 metri gli ho fatto un buco al bersaglio auroso, solo che c'ha troppo rinculo, ma la sorte è troppo forte, quel fucile è proprio di quelli americani. Già le conosco, le conosco tutte questi oggetti, io li chiamo oggetti. Gianfranco non ne ha di queste cose qua, no Gianfranco? No, io sono un pacifista. Sul tetto c'ho solo l'MG con relativo mastro e basta, quella è sufficiente. E a te pare? Sì, vabbè, cata Gianfra, ma quella lì non è che vada tanto bene, invece io avrei messo una di quelle teleguidate, di quelle con tante canne, una Gatling. Scusate, sono al telefono. Ehi, te l'immagini, la Gatling, ho visto. Già le abbiamo queste cose. Vive fuori da quel centro abitato, si è sempre perseguibili da questa gentaglia che gira. E io sono molto attento qua perché purtroppo da un decennio questo. stanno frequentando alcuni personaggi che non sono molto raccomandabili, perciò siamo un po' attenti, dai. Ho capito. Ah, la sorte che è gente da non fidarsi, se stanno frequentando gente così, e da non fidarsi, specialmente se uno è in campagna, isolato, pericoloso. Vabbè, non è che sono isolato completamente, è la casa più... Ormai dove sono io? È un paese. Ma il problema, no? Il problema è che la gente... Sta uscendo attorno a tratti. Quel microfono ci vuole buttato. Provo a cambiare la pila. Prova, ma... Oh, zanca. Provo a vedere che non sia la pila scarica. Ma uscire a tratti così. E chi è questo quel pizzidiolo? Vai, vai, fuoco, umane! Vai, Natalino, tu sì che mi chiami il nepo. Onde, monatari, che? Bubu! Bubu! Vai, Natalino, tu sì che mi chiami il nepo. Ebbè, Fontunius! Allora, Natali, come va? Sì, qualche volta a piedi, qualche volta in bicicletta. Ah, che bellissimo. Ascolta, mi sono preso un pacco di 8-8, ho preso un pacco stamattina dai cinesi. Me li programmi tutti e due un altro giorno, non adesso, no. Magari la prossima settimana. E vabbè, no problem. Vabbè, me li appoggiate per scorta, perché il V5 del più plus a forza del usato sta diventando tutto quanto si sta facendo tutta la vernice, ragazzi, capito? E quindi li voglio lasciare da una parte, voglio usare quelli più malleabili, diciamo, là. E intanto sono buoni, c'hanno un audio in ricezione bellissimo, io ne ho due di quelli. Sì, adesso no, c'ho anche il coso io, i marini, capito, i cavati di marini, cioè. E poi c'ho due V per me, che facciano frequentare del materiale neri, della Intec. Io sei attrezzato allora. L'altro mi bubù. Gli manca Paoletto. Ciao Vittorio, salutoni, ma non so che Vittorio sei, dei due, sono più due cugini. E quello che abita in campagna, Non è giovine, no, questo è vecchio. Ah, capito, ciao Vittorio, mi hai sentito dopo tanto. Ok, adesso mi immagino... Luca, se dove siete la salata, fate lo Stefano e gli mandi la voce di Falcona, perché il minimo ti ci manda a cagarti. Bobo, che microfono stai uscendo? Sei un po' così di radio. L'F10 sto usando, con l'FM500S. Brattolo, però Natali, non è chiara. Sì, non lo sai, Antonello esce sempre per i fatti suoi. È perché può cuomane. Aspetta, attacco l'MB24, là. Affetta. Alessio non è quaccomane, è birromane. Guarda un po', meglio da adesso. E qui birromane. Sei sicuro? Con cammini. Adesso da dove mi più tratto, adesso va meglio, vero? Sì, io c'ho quello nuovo ancora lì, che è peggio di questo. E da lontano amplificata ne che cosa amara. Cata, non posso accendere né il televisore né nulla. Mia moglie una volta ha acceso la radiolina in cucina e si sentiva più la radiolina che io. Già lo so, quello è quello che avevo comprato io, poi lavorato a te, io a me me l'ha fatto pagare 70 euro, me l'ha fatto pagare, figurati, e l'ho comprato, quando è, 2 mesi fa, l'ho comprato 5 semi MBP4, guardate, tutti comprati e tutti venduti, c'era uno, c'era Marina nel tempo, l'altro ha lavorato, non mi ricordo a chi, poi ho lavorato con la Peppa, quel baracchino che c'hai anche tu, quello che hai passato a all'amico mio, hai passato la magnetica, baracchino, quello che c'hai tu omologato preciso, perché non lo stavo più usando, ho detto usalo tu, gli ho detto almeno, gli ho detto che mi metti a baracchino e lo fai scaldare un po', perché se l'ho detto qua c'ho, detto, si guasta quell'apparato là, e allora gli ho detto usa quello. E già va bene. E cazzo. Va bene. Vittorio, rientrato, sì. Ma Vittorio non risponde. C'aveva il microfono e stava funzionando male. Evidentemente va a contatto l'occhio. Stavo scendendo a tratti. Figurati. Ho preso anche l'alimentatore stamattina, la 30 ampere, quelli cinesi, a me ho, c'ero di riserva, l'altro che c'avevo l'avevo venduto, mi avevano fatto la testa a cacco, diceva dammelo, mi serve, e però vabbè, io te l'ho pagato 20, la mia 20 ce l'ha posto, e ancora in scatola, nuovo, l'ho ricomprato nuovo, l'ho pagato 20 euro. Il mio da 50 l'ho pagato, 22 mi sa. Già mi va bene, intanto mi devo dire, mi sono ordinato un, cioè, non è che mi sono ordinato, mi stanno ordinando un coso, un 80 oppure un 140. Adesso vediamo un po'. Così c'è l'alimentatore già pronto, perché no, quello grande che c'è un modello vecchio, cazzo. Ogni tanto fate il pontino di non le palle piede di stare sempre cambiando, hai capito? Lo metto quello, lo metto da una parte, lo uso solo per fare riparazioni per qualche baracchino, qualcosa del genere, non le balle piene di stare sempre a cambiare le pontiere di un condensatore, invece ho già più di 20 anni, da quando avevo 80, figurati. C'è quello, cioè prima mi aveva regalato Gio Maria, però si è andato a finire male, boh, non andava più. Praticamente, anzi, non è che non andava più, mi dava, faceva QRM al baracchino. No, mi sono preso questo qua, questo non me lo fa ed è perfetto, 50 ampere. Però mi è stato modificato, c'è il tastino d'accensione, c'è i buchettoni dietro, il cavo è all'interno, non è esterno, non si vede niente. Si vede solo la, come si chiama, la, dove agganci i fili, da. Ah, vabbè, è stato bene a farlo fare così. No, io c'ho normale, come quando lo compro, capito? Non ho messo pepettoni, non ho messo niente. Anzi, uno di quelli avevo venduto, l'avevo messo dentro, l'avevo comprato e ce l'ho infilato dentro, ce l'hai presente quella la scatola del lo stabilizzatore del computer, dove ci mettono il cellulare 3220 e esce la tensione per quei computer grossi. L'avevo svuotato e ci ho messo di quelli cinesi dentro. Gli ho fatto, gli ho messo i bocchettoni, il pulsante, la spia per quando lo accendi e funziona tutto va bene, funziona. L'avevo fatto così, l'avevo fatto per me e poi mi ha fatto, dice, me lo vendi, poi prenditelo, e l'avevo dato, 20 euro l'avevo dato, adesso ho uno scatto di come si chiama? È un compressore per base saldante, quindi in pratica adesso vi faccio i fori, vi metto le boccole e ci piazzo quell'alimentatore che ho comprato oggi da 30 ampere, mi trovo la ventola, gliela metto esterna e almeno vi faccio l'alimentatore grande, bello, con frumentino, 12 volts, e faccio un bel alimentatore, mi costruisco, dato che ce l'ho con la scatola, è arancione e nera. Che vega, Eva? Avanti Natali, mi accompagna a ribusso. Via. Usanca. Ma quel Sadelta ancora ce l'hai, Antone? Sì, è attaccato al 2009. Per vedere se usciva bene col mio. Io fai scambio, ti do qui 888 già programmati e tutto, ti do, ne ho due di quelli e mi dai questa delta, bene qua. Ce l'avevo comprato stamattina, 288, ho pagato 30 euro, ah, se vuoi te lo posso prestare questa delta, così lo provi. Tanto ce l'ho fermo, capito, con 2009, non è che lo stai usando. Sto usando per di più FM500S con questo. Mi aspetta che te la faccio questa delta, così, con quel con 2009, così lo senti. Te lo posso prestare. Capito? Aspetta un attimo che te la attacco. E fai così. Solo che a prestarmelo mi viene male, se me lo vendevi era meglio. Capito? Perché a comprarlo non si trova. Perlomeno qua sa di non ce n'è, manco se ti ammazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo è il Salerno. Sì, ho capito, aggiungabile. Però ho detto che a me a prestarmelo mi viene male. Se me lo vendevi era meglio. Hai capito? Così era il mio e non dovevo avere problemi. No, la cosa, vendo o non lo vendo, capito? Ci sono ben attaccato a questo microfono qua, esce benissimo, esce una bomba. Poi vabbè, adesso appena mi arriva come si chiama la parata là che ti ho detto, gli aggancio questa alerta, gli aggancio, capito, come microfono. E quindi esce un bel bene questa alerta con quell'apparatura amatoriale. Già te lo ricordo, l'ho già avuto. Già te lo ricordi come quanto ci va bene. Via. Io ne sto cercando uno, se lo trovo di qui. Dovresti chiedere a Coso se gli manca qualche cosa. Ma io più, ma perché lui c'aveva un Sadelta, quello che ci avevo agganciato anche voto io, che di tanto tempo fa. Gli avevo prestato un bel abiturato. Ha detto, ciao Antonio, arrangiati. Me lo tengo io, capito? Magari è rimasto e non se ne fa nulla, te lo dà. Guarda, su Facebook se lo dice, se a trovarlo a Elio due occhini. Se te lo dà, o te lo regala, te lo ritiri. Quello è bello questa delta. Era l'Ecomaster Plus, no, adesso mi ricordo il modello, ma comunque usciva perfetto, era una bomba, era. Già te lo ricordi? Sì, già me lo ricordo, ma io non stavo parlando del microfono, no? Io stavo parlando se trovavo uno di quei cappami. Ah, c'è un 440, c'è. Ho visto oggi, 400 euro. Su Facebook l'ho visto, lo stanno dando. C'è anche la colonnina esterna, era tutto completo. Sì, ho capito, adesso lo guardo. E ci avete a proposito che sto guardando l'email perché mi deve mandare le ricette delle medicine la dottoressa. aspetta un attimo. Ehi, vado, io sono sceso lì al centro storico con... siccome la dottoressa mi manda via WhatsApp, no, la ricetta. Mi sono fatto la fotocopia, no? Sono entrato dentro quella farmacia al consumatore di valore e mi ha detto, dice... gliene posso dare solamente una, perché io cosa ne so se gli si era fatto 5-6 copie. E ti ascolto, ho detto, non è tutto, non so così scemo, ho detto, fammi 5-6 copie, gli ho detto, di questa cosa qua. E non so, ho detto, ce la faccio, ho detto, ora sono, ho detto, uno che spaccia. E a me mi serve, ho detto, questa medicina, ho detto, perché serve, ho detto, a mia moglie, ho detto, no, non mi serve per altro. Poi ho detto, me le dia a te. Dopodiché ho detto, straccia il foglio, cosa me ne frega, meglio, ho detto. Se vuoi lo cancello davanti a lei anche su WhatsApp col telefono davanti. Ah no, posso dare una, se li faccio fare la ricetta, mi ha detto, e mi porta l'originale. Detto, a parte detto, la mia dottoressa è abituata così. Poi ho detto, se dovesse capitare, gli ho detto, gliela porto l'originale. Se non, gli ho detto, faccia come vuole, gli ho detto. Beh, un attimo. Questo vediamo. No, qui c'era la pazzesca. Questa cazzo di la dottoressa. Solo me ne ha mandato. Di ricetta, forse me ne ha mandato le tre. Quando te lo mandano così, guarda, via telefono, sono tutti rincoglioniti, mi dici, tutti. O ti sbagliano la latta, oppure ti mandano i pezzi per conto suo, un pezzo. O forse segnate le tre, te segnalano uno o due. A volte conviene, fai qui mandare direttamente lì. La dottoressa e te lo fai fare avanti, tanto sono tutti ricoglioniti questi medici, da quando stanno facendo i vaccini non capiscono più la fanculo. Allora, due ricette mi ha mandato, e riso, invece che cinque me ne ha mandato tre solo di medicine, boh, sta rimambita della seghicia. Adesso vediamo se mi manda l'altra. Ti conviene chiamarla adesso, vedi? Se no quella se ne va e ti attacchi altra. Capito? Ma domani c'è la farmacia vicino lì all'angolo. Quella all'angolo di coso. Di via la mammola. Oh signore. Bebe. Ma vediamo un po'. Guardate qualcosa con l'apparecchio. L'ha messo ieri in vendita questo tipo qua, poi mi sembra che c'era anche un 4,30, se non ricordo male, ho visto, però non mi ricordo se ne voleva 4,50 o quanto ne voleva. E adesso guardo, vedere. Ha fatto intanto uno, c'è entrato, ha messo di sezione uno e voleva sapere quanto valeva un 6,80. E lui ha scritto, dice, io l'ho venduto 280 euro l'altro giorno. Quindi a questo, cioè, ho preso al volo e ho scritto io, guarda, io trovo 300, più la spedizione, gli ho detto se me lo dai a me. E lui mi risponde, aspetta che faccio un controllo. Poi mi ha sparato, dice, ho fatto un controllo e mi hanno detto 350, 400, ho detto 350, 400, 350, ho detto 400, ho detto mi copro il 440, ho detto 430, ne voglio 390 euro, perché c'era uno, l'ha fatto subito fuori, l'ha fatto, l'ha parecchio, tu sei impazzito, gli ho detto, ma neanche ne voglio, tienitelo conto, gli ho detto, ma ce la faccio, da regalati 350 euro, 400, ora l'ho sperimentato. Ecco, come lo codiamo ancora, a fregare persone. Brecco 10. Avanti, caro. Ma tu sei ancora? Eia, perché? deve essere dentro una fonderia, tutto un rumore fortissimo, ma se combinare? È una ventola cinese dell'alimentatore che fa casino. Già me ne sono comprato l'alimentatore nuovo stamattina. Devo installarlo nella custodia nuova. Così almeno non si sente quel rumore di questa ventola qua. Rumore della ventola, sembra la voce tua si sente poco a poco, giù mai manco si capisce, si sente un rumore tipo quando sei in officina che c'è accesa una moletta, una cosa del genere. Non so fare quel casino. Adesso sta passando l'elicottero, sta passando. E adesso meglio fa. È così così, ma è sempre rumoroso, un bel rumore si sente. È il microfono che fa così, sensibile. Lo sento anche io la ventola, ti credo, non la sento. Cosa vuoi farci? Che se la sposto non cambia nulla. Sembra tipo quando usi una moletta da lontano, rumore fa. Ma chi c'è? Qualcun altro? Natalino mi è sembrato. Sì, Natalino c'è. Poi c'è, dovrebbe esserci Luca. Luca, ci sei ancora? No, Luca non c'è. Aspetta che mi sta chiamando Simone un attimino. Ehi, Natalino ci sei? Sì, sto guardando cosa, però un attimo. Vediamo un po'. C'è qualche altro qua su 10? Ah, c'era Gianfranco e non è più rientrato. C'era Vittorio lo stesso. E Luca c'è. Ci dovrebbe essere Luca. Allora ti su 10 che vuole entrare? Vabbè dai, mi faccio dei lavoretti qua a casa, tengo acceso, eventualmente ci sentiamo dopo, dai. Ciao, vabbè. Il fischio lo conosco, chi è? Buonasera. Che cosa? Il fischio lo conosco, chi è? Ah, tu sei ancora? Sì, sì, come si chiama? No. Come si chiama? Fotodottore, adesso non mi ricordo il nome attivo. Io sento due segnali fortissimi, 960, uno sei tu Antonella, l'altro chi è? Sono io, Roberto. Marco. Cristian. E dove sei Cristian? Nella tua zona quasi. Infatti ha agito ogni segnalone, fa un segnale così forte, ha detto, non è Antonello. No, è Cristian, è qua vicino, deve essere... al GBC sarà. No, via Romana. Sì, 9.50 sei arrivato, adesso sei 9.40. Ah, ma sono ufficiale dell'amico meccanico. Ma poi c'era un altro che c'era il bip, chi era avanti l'altro che voleva entrare? Quello era 9.20. Ogni tanto c'è qualche persona nuova, però non ha il coraggio di entrare. Io sto facendo cosa? Ci sentiamo tra un pochettino, proseguite voi. Io sto scendendo un attimo dallo spin. Cristian, e te dove sei andato? Al meccanico. No, la macchina non mi conferma, adesso come meccanico accompagnato, chiesto che me la pompa della benzina. Ah, ho capito. Fai bene. Io sono un attimo allo speaker perché devo piare alcune cose che sto rientrando. Cioè ci stiamo fa pago. Che ha fatto? Tanto come la chiamo accesa in macchina, va tranquillo. Yeah, d'accordo, non c'è problema. Tanto ce l'ho acceso anche appena rientro. Devo fare a piedi, ci metto poco, 10 minuti, massimo 4 ore da salire e scendere. E sto arrivando. Che avanti? Si capruscia oggi, Che avanti? Sono Cristian, non è una cosa, ma sono spostato di frequenza io. Aspetta un attimino che è proprio quel wifi e ti centro. Oh la la la la la la. No, sei centrato. Ma perché mi ha detto Franco ieri? E tu sei spostato di 07, 06, boh. No, vabbè, anche se fosse 07 non cambia niente, perché col baracchini ci sono delle tolleranze è molto più largo rispetto a un apparato superiore, dai. Una amatoriale è molto più stretta, la modulazione, la larghezza di banda, per cui è più selettivo. Ma sei centrato, 27.075. Ok, non c'è dei dubbi, ma adesso c'è dubbio ieri Franco, ma non lo voglio molto più che altro, guarda. Ma Franco chi? Franco, ma c'è il cuore. Non Gianfranco, perché perché già Franco c'ha apparecchiature di categoria superiore. Dai. Se fa con il Sacro Cuore. No, vabbè, comunque se sei con lo stesso apparecchio sei giusto, fa 27.075. Sempre il Milan, alla 78. No, no, la voce non è un granché, ho il microfono che non si addice bene, perché sembra che ce l'ha attaccata la bocca, non è molto chiara la voce, forte però non è chiarissima. Ma questo microfono che in macchina amplificato non funziona bene, ci vuole voce originale. Ehi, adesso è andata un po' meglio, forse se te lo tieni un po' più lontano. Che microfono stai utilizzando? Un Proxel con amplificato, con l'eco. Non è un granché. Cos'è la radio invece? Una 48? Una 78 plus. Magari mettici un altro microfono, sempre della linea che coso, detta Giva, forse probabilmente molto bene. Questi Proxel vanno bene su certe radio e su altre no, perché c'è anche l'impedenza, magari hanno qualche valore diverso, non riescono a tirare un pochettino troppo il caricato di acuti. No, detta G ce l'ho, però nel Mobicom. Ebbene, non c'era un M43, quello no, cos'è M43 o M93, ma come non ammetto, M43 mi sembra. Io ho una 48 ed è una bomba, funziona benissimo. Sì, ce l'ho, ma è alle connessioni per il Mobicom LB40. Sì, ma magari, solo uno ne hai, no? Perché magari ne ha adattato, perché questa è una bella radio, questa è una 78. Oh, vabbè, anche il Mobicom è bello, ce l'ho anche io, l'ho prestato a un amico, anche se devo dire la 48 di modulazione è migliore. Il Mobicom è migliore per altre cose, però come modulazione è migliore. E se volete lo metto in Mobicom, lo provi secondo me. L'MP40 c'ha della Mobicom, quello con il display, come si chiama? A cristalli liquidi, nelle frequenze. Sì, sì, l'MP40. Sì, sì, no, va benissimo come radio, va più che bene. La 48 con la modulazione è un po' meglio, devo dire. Di ricezione è una gaggata, perché va subito in saturazione, però come modulazione è bella potente. Per lui è 78, 78. Ma cos'è? Sempre 40 canali? 78 con 200 canali. Ma c'è anche la banda laterale? Allora, 78 normale, il plus, il 78 plus. Ma quello piccolino è il 78 plus? Quello piccolo, sarà è fine. No, quello piccolino che c'è io, l'altro è il 48 plus, quello nero, è bellino, piccolino, dai. È l'evoluzione della 48. Questo è 78 invece? Sicuramente sono ampliato magari, perché tu c'hai le bande laterali, quell'altro non è la banda laterale, ma la base di partenza è sempre la 48, dai. Questo è MFM con 40 canali. Ah, ma non c'è le bande laterali però. No, MFM solo. Ah, allora è preciso la colonna 48, tutto nero è. Ehi, qua scritto Milan, Alan, CB, Transmet. Sì, allora è preciso quello che c'ho io, uguale. Cosa va bene, è piccolo, no? Non è ingombrante. Io di quello c'ho il suo microfono originale che c'ha la pudan, pure piccolino il microfono, da mettere, ma l'altro salvatore maestrale, l'avevo messo nel capo e poi non l'ho più utilizzato, ce l'ho qua a casa. Il microfono c'è a casa per cui originale, adesso me lo cerco. Ma c'ha gli attacchi, mi pare a 6 puli, non è a 4 puli col microfono. A 6 puli, Ma non sei, in che zona sei tu adesso? Carbonazzi, c'è presente dove c'è in Via Romana, il meccanico, lì. Ah, sì, fa cose così forte. Io sicuramente ti arrivo a bomba, lì. Sì, no, tu arrivi sempre a bomba, Maria, anche da casa, va tranquillo. Anche a casa tua arrivo forte? Eh? Arrivo forte anche a casa tua? Sì, a casa va benissimo, non ho problemi. Ah, no, male, dai, no, perché magari ci sono delle zone che magari è più sacrificato il segnale, più debole, dai. Io sono a metà strada tra, diciamo, Platamona e Sassari. Ah, giù verso Badalonga, sì. Ci avete Tino? Qua è un po' più lontano di Tino. Ma aspetta un attimino, io Tino più o meno mi immagino, non ci sono mai andato a casa sua. Ma tu sei prima, ci per dire, Gosmino, lo sai dove? Sono prima di Gosmino. Ma sei in quella direzione di lì più o meno? Io sono, c'è Bagrassella, secondo la trattoria. Ah, ho capito, dai. Quindi già riesco ad arrivare anche lì, dai. Patamona pulito, figurati. Arrivavo bene anche alla rotonda l'altro giorno. Benissimo, guarda. Va bene, dai, meglio così, dai. Perché ci sono certe zone che magari non è che sia molto, cioè molto efficiente l'antenna, però in altre, le zone di Alghero, tutte quelle cose, Sintino, quelle zone lì vado bene, poi magari ci sono delle zone che sono un po' sacrificate, per dire se vai tutta la zona a Castelsardo, quella zona lì io sono un po' coperto, c'ho palazzi e cose, mentre le zone di Alghero sono tutto aperto, tutta la zona Trentino, quelle zone le faccio bene, muro solo se ci arrivo forte. Sì, vabbè, dai, meno male, già ti difendi lo stesso, dai, come tranquillo. Ok, vediamo se è rientrato qualcuno qua sul canale 10, attenzione 10 che vuole entrare, in bagno non viene nessuno, io stavo smontando una roba, qua, dai, continuo, ci sentiamo tra poco, che sennò mi blocco tutto, che sennò non mi ricordo come l'ho smontata, ci sentiamo tra un po' Cristian, dai, a dopo, ciao ciao. Tanto fare cose anch'io, dai. Ora? Che avanti? Chi sei? E perché te lo sei così male? Sei tutto saturo. Sì, adesso va bene, forse un po' bacino di radio, sì. Fa un passaggio lungo. Va bene adesso, poco fa eri tutto saturo, compresso, boh, non so, non ti riconoscevo neanche. Ho visto l'apparecchietto, bello, carino, ma quanti canali è? 15 canali? 2 apparecchi che se ti possono interessare, e il prezzo è veramente ottimo. Uno è l'R1000 della Kenwood a valvole, non so se lo conosce. E vabbè, non voglio riparare qua in radio. Poi c'è l'ICR7000 come radio, e più c'è un Lafayette, tipo quello che c'è, tu, bello, molto bello, non mi ricordo che modello è, c'ha 3 radio, però a quel prezzo che vai ti chiamo con calma, te lo spiego per telefono, perché in radio non mi va a parlare. Sono degli ottimi apparecchi, uno è l'ICR7000 che ce l'ho uguale io, della Icom, bellissima radio, ottimo ricevitore, fa da 25 a 2000, e più c'è un R1000 della Kenwood, lo stesso, un ottimo ricevitore, all'epoca era una grande radio, quello è pure a valvole, bello, molto bello anche esteticamente, e poi c'è un questo Lafayette. Sono 2 apparecchi, li vende, ce ne ha 3, però li vende a gruppi di 2, per dire, se vuoi Lafayette e l'Icom, oppure l'Icom e Kenwood, e diciamo una cifra molto ma molto interessante. Se ti interessa, va, te lo dico a voce, io ce l'ho un bel apparecchietto, se vi interessa anche quello, di quello che ti ho dato io, quello discreto, dai, l'ultimo che non mi fai un regalo a Nicola, mi sembra. Sempre di quella famiglia, però superiore, con un prezzo molto ragionevole. Sto strutturando il console 2, ma sono contentissimo, venerdì o venerdì.